La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. L'altro giorno si è parlato di bullismo, di cyberbullismo, la prima giornata nazionale dedicata a questo tema, anche a Padova, in tante altre scuole del nostro territorio ci sono state diverse iniziative. Si è arrivati a questa giornata perché evidentemente il problema è cresciuto negli anni. Ne parliamo con un dirigente scolastico che è il professor Rocco Bello, attualmente dirigente del liceo Tito Livio di Padova, ma in passato una lunga carriera di dirigente scolastico anche nei livelli di scuola primaria e secondaria di primo grado. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno. Parlare di bullismo, di cyberbullismo oggi è possibile? Mi riferisco al cyber perché c'è la tecnologia. 20 anni fa, 25 anni fa non avevamo internet in mano e quindi i casi erano diversi. Sì. Lei su questo cosa ci può dire in base alla sua esperienza? Beh, si sono modificate effettivamente le forme, cioè le relazioni fra i ragazzi sono cambiate con l'avvento di internet e dei social network. E quindi quelle che erano relazioni che una volta si regolavano nel rapporto a tu per tu, a faccia a faccia, come si dice, adesso non si regolano più in questo modo e abbiamo invece manifestazioni pericolose, nel senso che anche quelle che una volta erano dialoghi o confronti che avvenivano di persona, adesso assumono subito la forma di colloqui, di dialoghi che avvengono in piazza. Quindi anche le cose più riservate, le cose a volte più spinose, gli aspetti più difficili da affrontare vengono messi in piazza e i conflitti finiscono in piazza, e questo finisce per creare divisioni e per creare anche forme neanche tanto leggere né sottili di esclusione, di emarginazione. E questi sono i casi che si stanno verificando soprattutto con l'avvento di WhatsApp, che ad esempio comincia a essere usato già nell'età della scuola primaria. Nella scuola secondaria ogni classe di primo grado, parlo della scuola media, ogni classe è ormai legata da un gruppo WhatsApp, e all'interno di questa piazza virtuale, diciamo, i ragazzi interagiscono, ma anche litigano, confliggono, a volte si escludono, emarginano, puntano l'indice, e i genitori che hanno messo in mano di ragazzi così piccoli strumenti così potenti senza la consapevolezza necessaria per utilizzarli al meglio, chiaramente si trovano anch'essi a chiedersi, no, quali possono essere gli effetti, e anche preoccupati per gli effetti di questo uso non consapevole. Come si può tentare di affrontare, ovviamente per quella che è la sua esperienza, è ovvio che la scuola vede una parte delle ore della giornata, certo. La famiglia ne vede altre, quindi su questo però cosa diciamo ci anche può dire? Come scuola noi non siamo estranei a quello che avviene fuori, perché certo. Poi ad esempio purtroppo il fatto che i ragazzi continuino ad interagire anche fuori dalla scuola attraverso questi strumenti fa sì che anche le relazioni che ci sono in classe, che si verificano in classe, siano condizionate a quanto avviene fuori, per cui i conflitti non hanno tempo e non hanno spazio in questo senso, no? E quello che succede all'esterno della scuola poi si riverbera inevitabilmente all'interno delle aule. Che cosa si può fare? Allora, anzitutto io credo che siano necessari dei presidi di ascolto, quindi è necessario che le scuole si dotino di spazi di ascolto dei minori, dei preadolescenti e degli adolescenti, che hanno bisogno di poter fare riferimento a figure, a luoghi, a tempi dedicati in cui poter esprimere anche le proprie situazioni di disagio, e in questo senso molte sono le scuole che hanno avviato questi percorsi. Poi un'altra delle azioni che si può fare è quella della formazione dei preadolescenti e degli adolescenti alla costruzione di relazioni positive all'interno del gruppo classe, e queste sono attività laboratori che possono essere organizzati dalle scuole anche in orario curricolare, a volte con ricorso a figure interne, a volte a professionalità esterne, ma che sono sono momenti fondamentali di formazione proprio perché si costruiscano fra i ragazzi relazioni solidali e quindi siano prevenuti gli episodi di, e poi formare anche i docenti a leggere le dinamiche relazionali all'interno dei gruppi classe che tante volte i docenti non conoscono e non riescono a decifrare. Poi io direi gli altri aspetti sono legati allo sviluppo delle competenze digitali, non tanto in senso tecnico, perché i ragazzi sono smaliziatissimi, ormai smanettano alla grande, ma quanto nel senso della consapevolezza dei pericoli, dei rischi che l'uso inconsapevole di internet comporta e quindi anche che cosa significa comunicare in rete, comunicare in modo corretto, quali sono i rischi della rete, quali sono le cose che non si devono fare interagendo in rete, insomma, ecco, quindi queste ad esempio sono, poi anche la formazione dei genitori, chiaramente queste sono alcune delle azioni possibili, ma ce ne sono tante altre. La sua esperienza a proposito dell'evoluzione, no? Dicevamo prima, in tanti anni anche la parola bullismo è arrivata. Che cos'è che distingue a suo parere un atto di prepotenza semplice da quello che poi viene chiamato bullismo e adesso anche cyber? Beh, credo che sia l'intenzione, intanto, chiaramente, no? Perché ci sono, possono esserci forme di prepotenza che derivano proprio dai caratteri dei ragazzi, dagli scontri che sono inevitabili, naturali, eccetera. E, l'altra condizione sono ovviamente i mezzi con cui questa forma di prepotenza si realizza, e purtroppo la rete è un mezzo che appunto propaga ed estende gli effetti, per cui non c'è nessuna possibilità di salvezza, diciamo così, di riservatezza, e poi il fatto che ad esempio le prepotenze avvengano ad opera di un gruppo più o meno costituito nei confronti di un singolo, insomma, che di solito è una persona debole o una persona ritenuta diversa, che non si conforma al sentire o al pensare comune, e quindi ecco, verso questo poi si scaricano le azioni di esclusione, di emarginazione, di messa all'indice o di derisione, ecco, quindi queste sono le cose, no? E purtroppo poi queste forme toccano i rapporti normali, ma toccano anche tutte le diversità, dalle diversità di genere alle diversità etniche, linguistiche, culturali, e quindi purtroppo, ecco, il bullismo sconfina poi anche nel, tra virgolette, razzismo. Però diciamo che generalmente sono forme che, se le scuole sono attente a prevenire, ad ascoltare, possono essere anche estinte, possono essere rieducate, se invece siamo sordi, ecco, possono manifestarsi episodi anche importanti e gravi. Però si tratta di creare qui una cultura dell'attenzione, dell'ascolto, soprattutto dell'attenzione ai ragazzi, laddove c'è un'attenzione educativa, non solo formativa, e quindi l'attenzione alle persone dei ragazzi come scuola, come comunità scolastica, ecco, questi episodi possono essere prevenuti e anche in qualche modo resi ininfluenti, insomma, ecco. Grazie al professor Rocco Bello, dirigente del liceo Tito Livio di Padova, per aver condiviso con noi la sua esperienza, e allora torneremo tra un paio di settimane a raccontare la scuola. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.